доступе к кондиционеру. Производят отправку прионом только после полной проверки системы вашего автомобиля. Режим работы alle 10, c'è qualcuno in frequenza? CQ canale 10, c'è qualcuno in frequenza? C'è qualcuno all'ascolto? E vai da Salino. Ehi, Marcolino! Sì, sono in passaggio perché sto installando il televisore di mia mamma, che l'altro praticamente ha un mese dalla scadenza dei 2 anni di garanzia, difettato, non si poteva riparare e ce l'hanno sostituito. Non credevo nemmeno che fossero così solerti, che trovassero storie e problemi, no. Dato l'assistenza, non si poteva riparare, la casa madre ha messo un foglio, siamo andati da 1 euro e sostituito con un altro di pari valore. Adesso glielo sto, mi sto mettendo i piedi di gomma sotto e quindi poi li memorizzo i canali e tutto. E sono entrato a salutare perché ti ho sentito chiamare, poi ho visto anche una portantina premuta, cioè tanto per... c'è qualcun altro sul canale, sicuramente entreranno adesso, capito? È tutto bene, ho visto l'altro giorno che si è fatto quella bella carbonara, ma era carbonara, sì, già ho visto bene, già era guanciale, sì, o ci ha messo la pancetta. No, guanciale, pecorino, una carbonara fantastica è uscita. Io e Adriano ce ne abbiamo leccato i baffi, perché ero solo qua, no? E la 50 è dovuta andare a Cagliari. Quindi ero solo, ho invitato Adriano e siamo fatti a carbonara, mamma mia. Oh, a Cagliari, e quindi state dando la passaggiata, ma andate un giorno solo oppure si trattiene un po'? No, siccome c'è Salvatore che stava facendo la professione, quello che si sta facendo fratemi, la professione perpetua, e allora è dovuta andare per forza, io siccome non posso camminare perché la macchina non ci arriva dove quel convento, allora non ci sono andato io, se no sarei dovuto andare anche io, però non posso camminare, che fai? E quindi lì, io qui, ungheresi, polacche, vai! Vai col tango! E vai col tango io. Vabbè, adesso almeno male che c'è la compagnia lì, un amico ti viene a trovare, almeno parlate, vi divertite. Se no, da solo è una paranoia. Bene. Allora io continuo a fare quello che stavo facendo, rilancio, vediamo se vuole entrare qualcuno. Sicuramente saranno mille all'ascolto, dai. E poi sentiremo con calma. Però ho detto, noi eravamo là, in quel paese, perché era il compleanno del mio cugino. E quindi lì abbiamo gozzovigliato anche noi, dai. Cappa. Va bene. Come sto uscendo? Che sto usando l'altro, quello grande. Bene, tu sai che l'orecchio mio non è da direttore d'orchestra, ma ti sento bene, niente da dire. E la radio com'è che sto usando la V508? Normale, naturale, Anzali. Bene, ti sento, io di più non posso dire. Poi con questi altoparlantini di queste radio di plastica, di cartongesso, non è che abbiano molto audio, capito? Una fedeltà buona. Già quello del 3009 è molto più grande come altoparlante. Cappa, va bene, dai, fai quello che stai facendo, ti lascio alle tue cose, al limite cerca di entrare che ci sentiamo, là, che adesso che ho piazzato l'antenna nuova è una goduria. Vedo cosa posso fare, da fare io te l'ho detto, a parte l'entusiasmo iniziale del primo giorno, poi io non è che sia molto presente, non riesco a stare più come prima. Vabbè, dai, va bene, mi ha fatto piacere sentirti, Natalia, ci sentiamo in un'altra occasione, poi ti racconto una cosa al telefono anche, informatica, dai, ok, ciao, buona serata, ciao. Ciao, ciao, ci sentiamo anche per bassa, ciao, ciao, che cos'è, anch'io ti devo dire una cosa, c'è qualcuno che vuole entrare sul canale 10, se no sto scappando.